Si scaldino. Forse un cuore esploso, ma forse le mani intrecciate. le ore si scaldano. E un cuore esploso tra i polsi e le mani abbracciate.